casa sul PC. Claudia, ti piace Noise? Claudia, ti piace Noise? Claudia, ti piace Noise? Claudia, ti piace Noise? E adesso? Tastera.